Capitolo 10. Un quarto d'ora, 20 minuti, passarono e Fanny se ne stava ancora lì a pensare a Edmund, a Miss Crawford e a se stessa senza che alcuno interrompesse. Incominciò a sorprendersi di essere lasciata sola così a lungo e a porgere l'orecchio nell'ansioso desiderio di cogliere nuovamente i passi e le voci dei compagni. Rimase in ascolto e finalmente udì voci e passi che si avvicinavano e si era appena resa conto che non erano quelli che desiderava quando Miss Bertram, Mr. Rushworth e Mr. Crawford sbucarono da quello stesso sentiero che prima anche lei aveva percorso e le furono dinanzi. «Miss Price, tutta sola e cara Fanny, come mai?» furono le prime parole con cui la salutarono. Lei spiegò la situazione. «Povera Fanny!» esclamò la cugina. «Come ti hanno trattata male! Avresti fatto meglio a rimanere con noi!» Poi, messasi a sedere con un cavaliere per parte, riprese la conversazione che poco prima li aveva impegnati e tutti e tre ricominciarono a discutere con grande animazione i possibili miglioramenti da apportare alla tenuta. Nulla era ancora deciso, ma Harry Crawford era pieno di idee e di progetti e generalmente qualunque cosa proponesse veniva subito approvata, prima da Maria e poi da Mr. Rushworth, il cui personale contributo pareva limitarsi ad ascoltare le proposte altrui senza azzardare idee proprie, tranne il rammarico che gli altri non avessero visto la tenuta del suo amico Smith. Dopo aver trascorso alcuni minuti, Miss Bertram, osservando il cancello di ferro, espresse il desiderio di varcarlo per entrare nel parco e poter così considerare meglio tutti gli aspetti del problema e fare i loro piani esaminando le cose da vicino. Quella, secondo l'opinione di Harry Crawford, era senz'altro la proposta più pratica, il migliore, l'unico modo di procedere per giungere a una vera e propria conclusione. Aveva già scorto un piccolo poggio a meno di mezzo miglio da lì, che poteva offrire un ottimo punto di osservazione per inquadrare la casa nel modo migliore. Perciò era opportuno andare fino a quella piccola altura varcando il cancello. Ma il cancello era chiuso a chiave. Mr. Rushworth rimpianse di non aver portato la chiave con sé. Era stato proprio sul punto di decidersi a prenderla ed ora esprimeva il fermo proposito di non venire mai più fin lì senza averla con sé. Ma questa risoluzione non valeva a rimuovere l'inconveniente. Non potevano andare oltre e poiché non per questo il desiderio di Miss Bertram veniva meno, la cosa finì con la ferma risoluzione di Mr. Rushworth di andare lui a prendere la famosa chiave, per cui partì verso casa. «È senza dubbio la miglior soluzione, visto che siamo già così lontani da casa», disse Mr. Crawford dopo che Mr. Rushworth se ne fu andato. «Sì, non c'era altro da fare, ma ora che siamo tra noi, sinceramente, non trova che la tenuta sia assai peggiore di quanto si aspettasse?» «Certo che no, anzi, proprio al contrario. La trovo più bella, più grandiosa, più completa nel suo stile, anche se questo stile in sé può non essere il migliore. E per dirle la verità, e qui abbassò alquanto la voce, non credo che mi sarà mai più possibile rivedere Sotherton col piacere con cui lo vedo ora. No, un'altra estate non lo migliorerà certamente ai miei occhi». Dopo un attimo di silenzio imbarazzato, la signorina rispose: «Lei è troppo uomo di mondo per non vedere le cose con gli occhi del mondo. Non metto in dubbio che se la prossima estate altri troveranno Sotherton migliorato, farà così anche lei. Temo di non essere in certi casi tanto uomo di mondo quanto sarebbe bene per me. I miei sentimenti non sono tanto evanescenti, né il ricordo del passato è in me controllabile a comando come avviene nella maggior parte dei casi per gli uomini di mondo». Seguì un breve silenzio. Poi Miss Bertram riprese: «Mi è sembrato che lei si divertisse molto durante la scarrozzata di questa mattina. Mi ha fatto piacere vederla in così buona compagnia. Lei e Julie hanno riso per tutto il tragitto». «Davvero?» «Oh sì, mi sembra sia stato proprio così, ma non ricordo affatto di cosa si sia riso». «Oh, mi pare di aver raccontato a Miss Julie alcune esilaranti storielle sul conto di un vecchio stalliere di mio zio. A sua sorella piace ridere». «La trova più spensierata di me?» «Ma più facile da divertire», rispose. «E perciò, capisce», continuò sorridendo, «di miglior compagnia. Come sperare di divertire lei con aneddoti irlandesi lungo un tragitto di 10 miglia? Certo, credo di essere briosa quanto Giulia, ma ora ho cose più serie a cui pensare». Senza dubbio ne ha, e vi sono situazioni in cui una eccessiva gaiezza sarebbe indice di insensibilità. Le sue prospettive, tuttavia, sono troppo belle per giustificare una carenza di buon umore. Lei ha di fronte una vista molto sorridente. In senso letterale o figurato? Letterale, penso. Sì, certamente, il sole splende, il parco offre un aspetto molto ameno, ma disgraziatamente quel cancello di ferro e quel fosso col suo terrapieno mi danno un senso di costrizione, di frustrazione. Non posso venir fuori, come disse lo stornello, e pronunciando queste ultime parole che caricò di significato, andò verso il cancello. Egli la seguì. Quanto ci mette Mr. Rushworth a portare quella chiave? E per niente al mondo lei acconsentirebbe a uscire facendo a meno della chiave, del permesso e della protezione di Mr. Rushworth. Se non fosse per questo, penso che riuscirebbe senza difficoltà a girare intorno al pilastro del cancello. Qui, col mio aiuto, penso che la cosa si potrebbe fare se lei desiderasse veramente sentirsi fuori e se acconsentisse a pensare che non è proibito. Proibito? Che sciocchezza! Certamente posso passare di lì e lo farò. Mr. Rushworth sarà qui fra un momento, sa, e noi saremo bene in vista. Oppure, se non lo fossimo, Miss Price sarà così gentile da dirgli che ci potrà trovare dalle parti di quell'altura, nel boschetto di querce. Fanny, rendendosi conto che quella non era cosa da farsi, non si trattenne dal fare uno sforzo per impedirla. «Ti farai male!» esclamò. «Ti ferirai certamente su quelle punte, ti strapperai il vestito, potresti scivolare nel fossato, faresti meglio a non tentare». Ma mentre pronunciava queste parole la cugina era già al sicuro dall'altra parte della cancellata e sorridendo con trionfante buon umore diceva «Grazie mia cara Fanny, ma io e il mio vestito siamo sani e salvi, perciò arrivederci». Fanny si ritrovò abbandonata alla sua solitudine e assorta in pensieri ancora meno piacevoli. Era rattristata da quasi tutto ciò che aveva visto e udito, sbalordita dal comportamento di Miss Bertram e irritata da quello di Mr. Crawford. Intanto, seguendo un percorso sinuoso, che per raggiungere la piccola altura le sembrò veramente illogico, i due furono ben presto fuori di vista e per alcuni minuti Fanny non scorse e non udì nulla che indicasse la vicinanza di qualcuno dei suoi compagni. Sembrava che il piccolo bosco fosse tutto per lei. Avrebbe quasi potuto pensare che Edmund e Miss Crawford l'avessero abbandonata, ma era impossibile che Edmund si dimenticasse così di lei. Improvvisamente un rumore di passi la distolse una seconda volta dalle sue meste riflessioni. Qualcuno giungeva, quasi correndo, lungo il sentiero principale. Fanny si aspettava di vedere Mr. Rushworth, ma invece comparve Giulia che, accaldata e senza fiato, nel vederla sola, esclamò con aria delusa «Ehi, dico, dove sono gli altri? Pensavo che Maria e Mr. Crawford si trovassero con te». Fanny spiegò. «Un bel trucco, parola mia, non riesco a vederli da nessuna parte». E intanto con lo sguardo esplorava ansiosamente i meandri del parco. «Ma non possono trovarsi molto lontano e penso di saper ripetere l'impresa di Maria anche senza che qualcuno mi aiuti». «Ma Giulia, Mr. Rushworth sarà qui da un momento all'altro con la chiave, aspettalo». «Io? Neanche per sogno. Per una sola mattinata ne ho avuto più che a sufficienza di tutta la famiglia. Ma dico, bambina, mi sono a malapena liberata dalla sua orribile madre, perché è questa la penitenza che mi è toccata subire mentre te ne stavi qui seduta tutta tranquilla e soddisfatta. Forse avresti potuto trovarti tu al posto mio, ma ti aggiusti sempre in modo da startene fuori dagli impicci». Era un rimprovero quanto mai ingiusto, ma Fanny trovò delle attenuanti e lo lasciò cadere. Giulia era irritata e aveva un'indole impulsiva, ma lei sapeva che il cattivo umore nei suoi confronti non sarebbe durato. E perciò, senza dar peso a quelle parole, le chiese se non aveva incontrato Mr. Rushworth. «Sì, sì, lo abbiamo visto, correva come se si trattasse di una questione di vita o di morte». «Ha avuto solo il tempo di dirci cosa andava a prendere e dove vi trovavate tutti quanti. Peccato che abbia dovuto fare tanta fatica per niente». «Oh, questo è affare della signorina Maria. Io non ho l'obbligo di punirmi per i peccati di lei. Non ho potuto evitare la compagnia della madre, visto che quella seccatrice di nostra zia faceva la corte alla governante, ma intendo sfuggire al figlio». E senza por tempo in mezzo, salì sulla ringhiera, la scavalcò e si allontanò. senza rispondere alla cugina che le chiedeva se avesse visto Miss Crawford e Edmund. Così Fanny rimase lì seduta, temendo vagamente di veder capitare Mr. Rushworth. Ciò comunque le impedì di pensare troppo al protrarsi dell'assenza degli altri due, come altrimenti avrebbe fatto. Si rendeva conto che Mr. Rushworth era stato trattato veramente male e provava un profondo disagio al pensiero di dovergli comunicare come si erano svolte le cose. Egli la raggiunse pochi minuti dopo che Giulia se n'era andata e, benché Fanny presentasse i fatti nella luce migliore, ne rimase evidentemente non poco mortificato e dispiaciuto. A tutta prima quasi non disse parola e solo la sua espressione lasciò trasparire l'estrema sorpresa e l'irritazione che provava. Andò fino al cancello e rimase lì, con l'aria di chi non sa cosa fare. «Mi hanno chiesto di rimanere. Mia cugina Maria mi ha incaricata di dirle che li troverà vicino all'altura oppure nei dintorni. Non penso che andrò oltre», disse lui con fare imbronciato. «Non riesco a vederli e se anche mi spingessi fino all'altura loro sarebbero già da qualche altra parte. Ho già fatto abbastanza strada». E con l'aria più cupa che mai, tornò a sedersi accanto a Fanny. «Mi dispiace molto», fece lei, «è un vero peccato e avrebbe voluto trovare da dire qualcosa di più pertinente». Dopo un intervallo di silenzio, egli osservò: «Penso che però avrebbero potuto aspettarmi. Miss Bertram era sicura che lei li avrebbe seguiti subito. Non avrei avuto bisogno di seguirla se fosse rimasta qui». Era innegabile, e Fanny si sentì messa a tacere. Dopo un'altra pausa, egli continuò: «Mi dica, Miss Price, anche lei ammira tanto questo Mr. Crawford come fanno certe altre persone? Per conto mio, non ci vedo niente di speciale». «Io non lo trovo proprio bello». «Bello? Nessuno può dire bello un uomo di statura così bassa. Non arriva al 1,65 m? Non mi stupirei se non oltrepassasse il 1,62 m. Io lo trovo veramente brutto. Secondo me, questi Crawford non sono assolutamente un buon acquisto per noi. Stavamo benissimo senza di loro». A questo punto Fanny si lasciò sfuggire un leggero sospiro. Proprio non avrebbe saputo contraddirlo. «Se avessi fatto delle difficoltà per andare a prendere la chiave, ci sarebbe stata qualche giustificazione. Invece mi sono mosso appena lei ha detto che la voleva». «Nessuno avrebbe potuto comportarsi con maggior compiacenza, ne sono certa, e sono anche certa che ha camminato il più rapidamente possibile. Tuttavia, sa, c'è una distanza non indifferente da qui a casa e fin dentro casa, e quando la gente aspetta calcola male il tempo e ogni mezzo minuto sembra lungo come 5 minuti interi». Mr. Rushworth si alzò e andò nuovamente al cancello, esprimendo il rammarico di non aver avuto la chiave in tasca al momento opportuno. In quel suo starsene fermo là vicino al cancello, Fanny vide un segno di cedimento e ciò la incoraggiò a fare un nuovo tentativo di persuasione. «È un vero peccato», disse, «che lei non li raggiunga. Pensavano di godere una migliore prospettiva da quella parte del parco e stavano considerando come si potrebbe migliorare tutto l'insieme. Ma non possono decidere nulla senza di lei». Evidentemente aveva miglior successo nel mandar via i suoi occasionali compagni di quanto ne avesse nel trattenerli. Mr. Rushworth si lasciò persuadere. «Bene», disse, «se lei pensa che veramente farei meglio ad andare, sarebbe sciocco da parte mia aver portato la chiave per niente». E, aperto il cancello, se ne andò senza altre cerimonie. Ora il pensiero di Fanny era libero di concentrarsi unicamente sui due che l'avevano lasciata sola tanto tempo prima e, piena di impazienza, prese la decisione di andarli a cercare. Seguì i loro passi per il sentiero lungo il fosso di cinta. Ne aveva appena imboccato un altro quando le giunsero all'orecchio la voce e la risata di Miss Crawford. Il suono si avvicinò e alcune svolte successive glieli portarono di fronte. Erano appena tornati nel boschetto, provenendo dal parco, dove un cancello laterale non chiuso a chiave li aveva indotti ad entrare subito dopo averla lasciata. Avevano percorso un tratto del parco, sbucando infine proprio in quel viale che per tutta la mattinata Fanny aveva sperato di raggiungere, e lì si erano seduti all'ombra degli alberi. Questa la loro storia. Era evidente che avevano trascorso il tempo piacevolmente e non avevano chiara nozione di quanto fosse stata lunga la loro assenza. La miglior consolazione per Fanny fu il sentirsi assicurare che Edmund Aveva desiderato moltissimo che fosse con loro e che certamente sarebbe tornato a prenderla se non l'avesse saputa già tanto stanca. Ma questo non bastò per cancellare completamente la pena di essere stata lasciata sola per un'ora intera. Quando gli aveva parlato di appena pochi minuti di assenza, né a bandire una certa curiosità di sapere di cosa mai avessero parlato durante tanto tempo. Così, quando per mutuo consenso si accinsero a prendere la via del ritorno, Fanny era depressa e piena di disappunto. Nel giungere ai piedi dei gradini che conducevano alla terrazza, videro comparire in cima Mrs. Norris e Mrs. Rushworth, finalmente pronte ad avviarsi verso il boschetto, un'ora e mezza dopo che erano uscite di casa. Mrs. Norris aveva impiegato troppo bene il suo tempo per muoversi più sollecitamente. Se tutta una serie di contrarietà e di complicazioni aveva turbato il piacere delle nipoti, lei aveva trascorso la mattinata con completa soddisfazione, poiché la governante, dopo molte cortesi spiegazioni sui fagiani, l'aveva condotta alla cascina, l'aveva informata di tutto punto sulle loro mucche e le aveva dato la ricetta di un loro famoso formaggio mantecato. E dopo che Giulia le aveva lasciate, si erano imbattute nel giardiniere. Un incontro davvero soddisfacente perché Miss Norris gli aveva spiegato quale fosse la vera natura della malattia di un suo nipotino ed era riuscita a convincerlo che si trattava di un accesso di febbre malarica, contro la quale gli aveva promesso di fargli avere un sicuro rimedio e lui, in contraccambio, l'aveva accompagnata in giro nelle sue belle serre di piante rare e le aveva addirittura regalato una curiosissima piantina di erica. Dopo che i due gruppi si furono incontrati, i cinque tornarono in casa dove, riposando su comodi sofà, ammazzarono il tempo chiacchierando e sfogliando numeri della Quarterly Review mentre aspettavano il ritorno degli altri e l'ora del pranzo. Era tardi quando le signorine Bertram e i loro due cavalieri rientrarono. A quanto sembrava, le loro scorribande erano state solo parzialmente piacevoli e niente affatto producenti dal punto di vista dello scopo della gita. Secondo il loro resoconto, avevano girato alla ricerca gli uni degli altri e a Fanny, che li osservava, sembrò che si fossero incontrati troppo tardi, sia per ristabilire fra loro la buona armonia, sia perché fosse possibile discutere una qualsiasi modifica nell'assetto del parco. Mentre guardava Giulia e Mr. Rushworth, si rendeva conto che il suo non era l'unico cuore insoddisfatto. L'espressione di entrambi era piuttosto cupa. Invece, Mr. Crawford e Miss Bertram erano allegri e le parve che durante il pranzo lui si desse particolarmente da fare per dissipare ogni traccia di risentimento degli altri due e per ristabilire il generale buon umore. Il tè e il caffè furono serviti subito dopo il pranzo, poiché la tirata di 10 miglia sulla via del ritorno non consentiva altri indugi, e così, dal momento in cui sedettero a tavola fino a quello in cui la carrozza si fermò davanti alla porta d'ingresso, fu tutto un vuoto indaffararsi finché Mrs. Norris, dopo essersi data un grande affare qua e là e aver ottenuto dalla governante alcune uova di fagiano e un formaggio mantecato, e dopo essersi congedata con un profluvio di convenevoli da Mrs. Rushworth, non fu pronta a guidare la ritirata. Intanto Mr. Crawford, avvicinandosi a Giulia, le disse: "Spero di non perdere la mia compagna a cassetta, a meno che lei, occupando un sedile tanto esposto, tema l'aria della sera." L'invito non era stato previsto, ma fu accolto assai graziosamente e sembrò che la giornata di Giulia dovesse finire bene, come era incominciata. Miss Bertram, che aveva deciso una diversa sistemazione, fu alquanto delusa, ma la convinzione di essere in realtà la preferita servì, nonostante tutto, a consolarla e la mise in grado di accogliere il cortese commiato di Mr. Rushworth con la debita gentilezza. Evidentemente egli era più soddisfatto di scortarla verso lo sportello aperto della carrozza di quanto lo sarebbe stato se avesse dovuto aiutarla a salire a cassetta, e la sistemazione definitiva sembrò rafforzare il suo autocompiacimento. "Beh, Fanny, questa per te è stata una gran bella giornata, te lo dico io", attaccò Mrs. Norris mentre la carrozza attraversava il parco. "Tutto si è svolto piacevolmente dal principio alla fine. Penso davvero che dovresti essere molto grata a tua zia Bertram e a me per aver trovato il modo di fartela godere. Hai trascorso proprio una bella e divertente giornata." Maria era abbastanza scontenta da farle notare, senza tanti complimenti, Penso che sia trascorsa abbastanza bene anche per lei, signora. Sembra che il suo grembo trabocchi di cose buone e qui, tra noi due, c'è una cesta e non so che altro che preme sgradevolmente contro il mio gomito. Mia cara, si tratta solo di una bella piantina di erica che quel simpatico vecchio giardiniere mi ha voluto dare ad ogni costo, ma se ti incomoda, me la metterò subito sulle ginocchia. Prendi, Fanny, reggi questo pacco per me, abbi nella massima cura, non lasciarlo cadere. È un formaggio mantecato proprio come quello delizioso che ci hanno servito a pranzo. Non c'è stato modo di impedire alla buona vecchia Mrs. Whittaker di darmelo. Ho rifiutato finché ho potuto, finché gli occhi non le si sono riempiti di lacrime e io, da parte mia, sapendo che è proprio di una qualità che piace a mia sorella, l'ho accettato. Quella Mrs. Whittaker è proprio un tesoro. Quando le ho chiesto se passavano il vino alla mensa della servitù, ha detto di no, assolutamente scandalizzata. Ha licenziato due cameriere perché in libera uscita indossavano vestiti bianchi. Bada al formaggio, Fanny. Per conto mio, ce la faccio benissimo a reggere l'altro pacco insieme col cesto. Cos'altro ancora è riuscita ad arraffare? Chiese Maria, semicompiaciuta che Sotherton fosse messo in così buona luce. Arraffare, mia cara? Si tratta solamente di quelle belle uova di fagiano, mi ha costretta ad accettare. Non ha ammesso rifiuto. Quando ha saputo che vivo tutta sola, ha detto che per me sarà una grande distrazione avere alcune creature vive di quel tipo, e sarà sicuramente così. Dirò alla ragazza che bada alla cascina di metterle sotto la prima chioccia libera. E se si schiuderanno bene, farò portare i pulcini a casa mia e prenderò in prestito una stia. E sarà un grande piacere per me, nelle mie ore di solitudine, prenderne cura. E se avrò fortuna, ne darò qualcuno a tua madre. Era una bella serata, tiepida e senza vento. La serenità della natura rendeva piacevole il viaggio, ma quando Mrs. Norris smise di parlare, all'interno della carrozza cadde il silenzio. Ognuna delle sue compagne di viaggio meditava sulla giornata trascorsa, cercando di scoprire se le aveva dato più gioia o più pena.